Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Una riforma della giustizia che acceleri i processi è talmente doverosa che trovo immorale dare un tempo di 6 anni per la fine di un procedimento. È troppo, non troppo poco. Penso però che le riforme debbano andare in altri sensi. Ad esempio, riduzione dei gradi di giudizio. In caso di assoluzione in primo grado, considerare definitivamente concluso il procedimento. Riforma del processo d'appello, che per chi lo affronta dovrebbe essere un rischio e non solo un beneficio. Abolizione dell'istituto della prescrizione. Questa norma allunga i processi, non li abbrevia. In alternativa a questi provvedimenti si potrebbe procedere a un potenziamento e una razionalizzazione dei tribunali. Oppure ci si potrebbe mettere d'accordo, all'unanimità, per liberare Berlusconi da ogni processo passato e futuro e fare in modo che il paese riparta. Paolo. Premetto di essere un elettore di destra e quindi al di sopra di ogni sospetto di collusioni con la minoranza. Non sono un comunista. Comunque penso che questa novità circa la durata per legge dei processi sia una grande baggianata. La prendo quasi come una presa in giro per la mia intelligenza. Per chi conosce solo un po' il sistema giudiziario ci vuole ben altro per farlo funzionare. Prima di ogni cosa ci vorrebbero la serietà e l'autorevolezza di chi, posto in posizioni di rilievo, sia davvero al di sopra delle parti e possa far sentire la sua voce, comprendendo a fondo il sistema per poi correggerne le deficienze. Meno televisione, meno spettacoli e interventi pubblici e più lavoro sul campo, a fianco di coloro che ogni giorno battono le strade. Sono sicuro che per un ministro sarebbe molto più utile se, prima di agire, stesse per un mesetto a visitare i tribunali e a parlare con la gente comune, operatori e cittadini, piuttosto che stare negli studi televisivi o in comodi uffici. Dopo un bel bagno di umiltà e di realtà, allora sarebbe in grado di fare le cose giuste al momento giusto e soprattutto nell'interesse del popolo italiano. Massimo. A chi serve il processo breve? Serve ai cittadini. Tutto ciò che limita la prepotenza e strapotenza della supercasta dei magistrati serve ai cittadini. I nostri magistrati sono gli unici in Europa ad avere più di 2 mesi di ferie all'anno. Nessun orario di lavoro, stipendi da favola, privilegi a non finire. E sono anche gli unici a non rispondere a nessun altro del proprio operato. Almeno la casta politica ogni 4 o 5 anni deve affrontare il giudizio dei cittadini. Il dirigente è quello del proprio assessore o ministro, il giornalista quello dei lettori e del proprio direttore, il medico quello dei pazienti, eccetera. Loro, invece, i giudici, possono distruggere impunemente galantuomini come Tortora e tanti altri come lui, senza pagare alcunché. Altro che mafia. Escono dalle università del 6 politico e senza aver mai fatto alcuna esperienza di vita e di lavoro. Fanno un concorsino e si trovano a giudicare della vita e della morte dei cittadini. Le nazioni civili e le imprese estere ci schifano per questa giustizia e si tengono ben lungi dall'Italia. E in più, molti di loro sono comunisti doc e non fanno altro che dedicarsi a spulciare la vita di Berlusconi mentre i delinquenti vengono rilasciati sulla parola. Non si deve permettere che condizionino l'operato o addirittura l'esistenza dei governi legittimamente scelti e votati dal popolo sovrano. Sarebbe un golpe sudamericano con i magistrati al posto dei militari. Occorre separare la carriera dei giudici da quella dell'accusa, come in tutti gli stati civili, e questa deve dipendere dal ministro o dal presidente della regione o dal sindaco, a seconda del tipo e grado di reato. Debbono essere perciò queste istituzioni, elette dal popolo, a decidere della programmazione e delle priorità in campo giudiziario, proprio come fanno nel campo della sanità o dell'istruzione o dell'urbanistica. Non si capisce perché le istituzioni democratiche possono decidere dove e come costruire un quartiere o come definire un programma scolastico e non possono invece scegliere le tipologie dei reati da combattere prioritariamente. Non si deve permettere che i magistrati si arroghino il diritto di interpretare le leggi, dato che a forza di interpretarle finiscono per travisare la volontà del legislatore. Se un articolo, un paragrafo o una legge non sono precisi e si prestano a dubbi o margini di interpretazione, il magistrato deve presentare un quesito all'ufficio legislativo del suo ministro che, a sua volta, può girarlo al Parlamento, che è l'unico potere abilitato a legiferare e modificare proprie leggi. Non si deve permettere che il magistrato che sbaglia non paghi. Occorre istituire un organo esterno alla magistratura, ad esempio costituito da una rosa estratta a sorte dall'elenco dei presidenti di seggio, per il controllo dell'operato della magistratura. Non si deve permettere che i processi durino decenni, a discrezione del magistrato. È uno scandalo e un'ingiustizia. Giorgio. Fino a che non si farà un'analisi completa delle cause e delle responsabilità evidenti dei parlamentari che hanno portato a ridurre le prerogative per l'immunità e finché non verrà definita una serie di punti che impediscano il ripetersi di abusi, credo che si debba fare quadrato come cittadini contro la riforma dell'immunità parlamentare, per quanto possa valere il nostro pensiero di persone oneste qualunque. Augusto. Gentile redazione. La società per la quale lavoro impone a coloro che hanno a disposizione l'auto aziendale e a coloro che sono abilitati a guidare i muletti il test tossicologico a sorpresa relativo alle seguenti sostanze: cocaina, metanfetamine, oppiacei, cannabinoidi, anfetamine, barbiturici, metadone, ecstasy, benzodiazepine e fenciclidina. Alla luce di ciò e fatte le dovute proporzioni, i nostri parlamentari, che hanno una responsabilità ben superiore alla mia, dovrebbero essere rivoltati come un calzino. Altro che test su base volontaria. Marco Novara. Perché non legare i diritti TV delle partite di calcio anche alla presenza reale media di spettatori nel proprio stadio? Si avrebbe una distribuzione più uniforme delle risorse. Le piccole società potrebbero riuscire ad avere più soldi, visto che alcune grandi vantano quote abbonati da 40.000, ma hanno solo 1.000 presenze reali. Le grandi avrebbero comunque la possibilità di mantenere il loro status quo, gestendo al meglio i loro capienti stadi. Le società sarebbero incentivate ad avere sempre gli stadi pieni e non a considerare come unico fruitore l'Homo Telecomandus. Questo sarebbe un motivo in più per non seguire in trasferta la propria squadra, visti i divieti a singhiozzo che vengono emanati e visto che se vado in trasferta porto indirettamente soldi agli avversari. Le presenze reali potrebbero essere certificate dai moviolisti. Non si sa come verranno divisi i diritti, ma di certo è che per ogni euro ricevuto, 3 vanno spesi e 2 presi a prestito. Alessandro. Egregio direttore, mi permetto di portare alla vostra attenzione il seguente problema. Ho 61 anni ed essendo libero professionista posso andare in pensione solo quando avrò compiuto 65 anni. Attualmente, avendo scarse o addirittura 0 commesse da svolgere, ho deciso di iscrivermi a diverse agenzie che dovrebbero inserirti nel mondo del lavoro e ho scoperto che non è affatto così. Loro continuano a tempestarti di informazioni riguardanti corsi e master a pagamento. E ho scoperto che la loro funzione è solo quella di fare da tramite delle richieste di mercato ad eventuali lavoratori che si offrono. Il fatto è che qualsiasi offerta di lavoro che si trova su internet passa attraverso queste società. Ora, io ho seri dubbi che loro riescano a capire le vere capacità dei candidati. Una volta c'erano i famosi cacciatori di teste che selezionavano il personale. Ora ci sono queste suddette agenzie. Chiedo cortesemente se voi sapete chi ci sia dietro a questa proliferazione di agenzie che, a mio parere, non permettono di contattare direttamente il cliente finale. Lettera firmata. Caro ascoltatore, la ricerca di lavoro, soprattutto in un periodo di difficoltà economiche, è sempre un passaggio difficile e complesso. Fino a qualche anno fa ogni forma di intermediazione era proibita e l'incontro tra la domanda e l'offerta di impiego poteva avvenire solo attraverso gli uffici di collocamento. Ora anche questo mercato è stato almeno in parte aperto ai privati e insieme a iniziative dinamiche ed efficienti sono nate agenzie che offrono corsi e chiedono pagamenti più che presentare serie opportunità. Le aziende non sono per nulla obbligate a passare attraverso queste agenzie per le loro assunzioni e così nulla vieta a chi vuole candidarsi di presentare direttamente la propria disponibilità. Si tratta di un'opportunità in più. Resta il fatto che il percorso alla ricerca dell'impiego è comunque quanto mai difficile, così come è difficile l'equilibrio tra i necessari controlli pubblici per evitare sempre possibili abusi e la salvaguardia delle iniziative private, comunque utili e costruttive. Thank you. rottamazioni, auto, moto, biciclette, carrozzine, frigo e TV, computer, eccetera, eccetera. I potenti fanno i bilanci con le rottamazioni, ma allo stesso tempo costringono un gran numero di persone e di famiglie a contrarre debiti per minimo 5 anni, con rate precise mensili per comprare prodotti in offerta speciale. Il risultato è che il mercato viene drogato e che una volta acquistati i beni in promozione, ben poco rimane per tutti gli altri beni, abbigliamento, articoli per la casa, ceramiche, alimentari e quant'altro. Per il bene di pochi, per farli sopravvivere, si fa la rovina di molti. Per sostenere carrozzoni che riverserebbero sulla strada migliaia di operai tutti insieme, si preferisce avere piccoli licenziamenti da 5-6 operai per volta nelle migliaia di piccole aziende che, grazie al sostentamento dei grandi, fanno fatica a tirare avanti. La macroeconomia uccide la micro, ma la micro fa poco rumore e non interessa. Si tratta di pochi voti per volta. Noi non contiamo, siamo niente. Siamo solo numeri da ricontattare al momento delle prossime elezioni. Massimo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.